addosso. Ebbene, sul capo mio, l'onda che terge dall'antica macchia, via sparsa in breve, un sacro terror m'investe. Di terror che parli, quei che tua penetrata, ostia di pace sofferse, e pace in piove nell'armi in fughi discende. Io non adoro, ma facendo sofferti è sconvolta la mia. Oliuto, tenendi gelosia, prove il cor, sia vero. La parola, intendere il pensiero, mal può di quanto amor la mia consorte amava. Ebbè, di tristezza ingombra d'alor la vidi, e tacito le guance sol farle amaro pianto. Alle inne chiesi col labbro incerto mendico ragioni che pur pretesti. Ai, quando giace nel sonno, ed io coi miei sospetti veglio, gene la sento, e troppi detti parlar d'amore. A Callistene apersi il mio pensier geloso, ed un rivale anche che i sospetta. Chi non la sa? Ministro d'un culto iniquo, ben costui le parti tutte mi adempie. Di virtù severa, segue la tua consorte. Calmati, cessa, il momento s'appressa. Il momento solenne. Soccorso implora che in quan giammai non fu richiesto. Io piego la fronte nella volpe, e gemo e prego. Thank you. Thank you. Thank you. l'armeno a te m'invia. Felice egli ti brama, e da tal luogo ingiunto m'ha d'estirpar l'iniqua sacrilega genia, ribelli ai numi che s'annida tra voi come tra i fiori malvagia serpe. Dolce presenza, il cor già Grazie. Let's get on. dice, ove gli assenti or fosse, a te dirà la figlia. Atrio varcar tu la vedrai, e l'ora è questa in cui si tragge a suoi penati. O dimmi, parla! Quai giorni dello sposo accanto a me da costei solinga vive, ma forse dimene al tempio suo malgrado spinta fu dal paterno cenno, qual penda egli mi strappa. O cielo, e no fra poco arder gli incensi. Ritrarmi all'ara, ivi t'aspetto, compiasi l'opra. Negramente un sogno. Se volto ancor Lucrezia vieni, è un brando compagnia navea. Thank you. Thank you. magistrati, guerrieri, vado, e surto al fin delle celesti vendette il giorno. Io l'affrettai, chiamando l'armi di Roma, tribunal migliore a difendere il tempio, non fate il tempio stesso. Tanti seguaci del suo vietato culto, quel reo di morte che mi scopra in cuori, l'accusò misti e la confermo. Spera abbastanza, pur mi trema il neofito appella. Io sì, in nome di colui che tembra i fati dell'impero. Ed io potrei tradire un mio fratello, bruttar di tanto eccesso, potrei questa ema inorridi sotto. Il sangue è pieno, il sangue è mio, l'anima no, che l'anima è di Oh. Thank you. Thank you. vittima non fia. Come? L'esempio di Polliuto altri seguir, cui morte pel nuovo Dio non atterrisce. Costanti! Il suo dolore lonta nel domestico tetto felice asconde, ma la figlia forse del proconsole al piede. Tu mi divorse! È debil sempre alma schiava d'amor. Già ferve in esso dell'imminente strage, la plebe vana è per sé, ma quando la tratta il saggio è formidabile brando. passa un cenno tuo. Adonde si rio sospetto? Callistene! Or basti! Un nome pronunciasti che ricorda ogni colpa. Desecrabil fiamo arde colui per la tua sposa. O crever possio tanta perfidia. E giuro che qual lume tu vuoi del giuramento vindice al par che testimono e Thank you. ancor sei? Scegli Marte nel circo si attratto. Io lo so. Venisti o gli altari istante concedi e ti faccia se ancora persisti guai, guai e Dio con la fede ci dà la costanza becca esti la sabbia se persisti forse sei figlia del padre sorbienti no non ti chiedo che vivi per vero del padre sorbienti del padre tuo ma se muori egli muore con te no d'amore non spavento ma del padre ti rammenti ma la madre mori Thank you. dei per tua parte.